Respiro. Buon pomeriggio da Laura Bettini. Nei giorni scorsi, forse lo ricorderete, molti giornali riportavano la notizia dell'avvistamento di un'enorme isola di spazzatura nell'oceano Atlantico. Il Pacifico ha già la sua, quindi questa è la seconda isola immonda degli oceani. Quando si parla di questi ammassi di rifiuti c'è sempre qualcuno che adombra l'invenzione, il complotto ambientalista per terrorizzare il mondo. È sbagliato. Noi abbiamo chiesto di approfondire la questione a Nadia Pinardi, docente di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università di Bologna. Le abbiamo chiesto innanzitutto se è attendibile questo Sea Education Association, questo centro americano che ha individuato quest'isola dell'Atlantico. Dunque, è un centro abbastanza riconosciuto a livello scientifico per l'educazione sul mare. Questo è importante perché per quanto riguarda queste isole di spazzatura mancano delle, diciamo, indicazioni scientifiche oltre all'avvistamento di queste isole. Sì, esattamente. Non si è ancora organizzata una vera e propria presa dati, come la chiamiamo noi in terminologia scientifica, adeguata in modo tale da poter usare sistemi di riconoscimento e di mappatura della struttura di questa chiazza di rifiuti più adeguati. Essendo la macchia o l'area investita da questo fenomeno molto estesa, probabilmente è necessario usare strumenti più adeguati, che non sono la semplice nave che va alla ricerca in questo mare infinito, l'Oceano Atlantico, l'Oceano Pacifico, di alcuni pezzi di materiale sospeso. Questo non ci dà una buona, si dice, campionatura del fenomeno. Tipo rilevazioni satellitari, per esempio, potrebbero essere più utili in questo caso? Sì, più utili, ma anche organizzare più navi che vanno in maniera scientificamente conosciuta a cercare di mappare quest'area molto grande, e quindi anche di dare una localizzazione precisa a tutti i rifiuti trovati. Noi non troviamo mai una vera e propria carta della densità dei rifiuti. Troviamo numeri tipo 200.000 pezzi di rifiuti per chilometro quadrato. Ora, a parte il numero molto grande di pezzi, ma che dimensioni hanno, a che profondità si trovano, il galleggiamento naturalmente nell'acqua dipende dal tempo in cui il materiale è stato nell'acqua, eccetera. È chiaro però che è un fenomeno che ormai pretende l'attenzione della comunità scientifica, anche perché è un serio pericolo per la vita nell'acqua. Per gli animali, ma forse anche per la navigazione in un futuro, se continua a essere in espansione. Sì, direi che nell'immediato il problema vero sia quello degli animali, quindi che si cibano certamente di questi materiali. Vi ricordo che ci sono stati due spiaggiamenti anche in Puglia recentemente di delfini che purtroppo avevano lo stomaco pieno di plastica. La mappatura, diciamo, ma anche l'analisi specifica di quello che contengono queste isole di plastica è un problema che riguarda sia questa nuova sia quella già nota del Pacifico, vero? Esattamente. Allora, quello che succede è che la circolazione oceanica è formata da vortici che tendono in certe occasioni a contenere al loro interno il materiale che viene depositato nell'acqua. Quindi se viene rilasciato, per esempio, petrolio, inquinanti, in certe strutture circolatorie, queste fanno da contenitore. Le correnti tendono a mantenere la chiazza limitata o, in questo caso, i materiali che sono sospesi nell'acqua. Quando avviene questo, bisogna innanzitutto cercare di andare sul luogo e di mappare questa struttura in una maniera che ormai conosciamo dal punto di vista scientifico, per ottenere un'informazione il più possibile credibile. E bisognerebbe usare questi metodi, così come facciamo di recente per l'inquinamento marino da petrolio, da altri agenti che vengono rilasciati, anche per il materiale sospeso, il materiale di rifiuto che chiaramente purtroppo abbiamo depositato nel mare nei lunghi anni passati. Dove sono queste isole e sono in movimento? La circolazione degli oceani è formata essenzialmente da due componenti. Una è quella che chiamiamo climatica, che è predominante sulle scale temporali lunghe e che è sempre nella stessa direzione. Di giorno in giorno però questa circolazione può cambiare anche in maniera notevole. In particolare le strutture circolatorie che tendono a contenere il materiale rilasciato sono strutture che si chiamano anticicloniche, sono come il nostro ciclone delle Azzorre durante l'estate nell'atmosfera. Nel mare ci sono tanti anticicloni delle Azzorre e uno di questi è quello che viene chiamato il Grande Giro del Pacifico, un altro è il Giro dell'Atlantico, che si trovano alla stessa latitudine praticamente nei due bacini, e questi giri sono formati a loro volta da sottogiri che sono variabili sulle scale temporali del giorno e che possono contenere questi materiali. Quindi il materiale non è uniformemente distribuito su tutta la superficie, è contenuto in un'area che chiaramente è quella dei giri subtropicali, si chiamano anche questi anticiclonici, diciamo. Dopodiché all'interno di questi giri ci sono delle strutture più piccole, molto variabili, che possono rendere la distribuzione molto disomogenea, cioè è come se ci fossero tanti vorticetti dentro un grande vortice. Quindi non dobbiamo immaginare un'isola compatta, ma una serie di piccole isole. Tu hai parlato di Nord Pacifico e Nord Atlantico, nell'emisfero sud? Nell'emisfero sud ce ne sono altrettanti che circolano dall'altra parte, hanno però lo stesso effetto. Quindi cioè, realisticamente potrebbero essere individuate anche? Assolutamente sì. Però il problema è che nel sud la diretta sorgente di materiale, cioè di rifiuti, è molto minore, perché ci sono meno masse continentali, quindi l'input netto è minore, sicuramente minore. Ed ora restiamo in tema di rifiuti, anche se non di quelli che finiscono nelle isole oceaniche. Parliamo infatti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dell'8 marzo 2010 numero 65 sulla modalità di gestione di questi rifiuti. Il decreto sarà pienamente operativo quindi dal 18 di giugno 2010, il 18 giugno prossimo. È il cosiddetto decreto uno contro uno, e cioè compro un apparecchio nuovo, consegno al negoziante il vecchio. Ne parliamo con Marco Arnaboldi, presidente di EcoElite, consorzio nazionale volontario accumulatori ed elettroutensili, che è forse la prima organizzazione in Italia ad essersi occupata della raccolta e del recupero dei RAEE. Questo consorzio si occupa sostanzialmente di due attività principali: uno, il recupero e riciclaggio delle batterie ricaricabili e non, e l'altro del recupero e riciclaggio degli apparecchi elettrici e elettronici giunti a fine vita. Batterie di tutti i tipi? Sì, batterie di tutti i tipi, che sono batterie in sostanza che possono essere ricaricabili piuttosto che non, e sono destinate a essere impiegate, possiamo anche dire oramai a titolo generale, in moltissimi apparecchi che ci circondano, dal cellulare piuttosto che all'utensile elettrico, piuttosto che all'aspirabriciolo della nostra cucina. Certo, io credo che negli anni voi abbiate visto un notevole incremento dell'uso delle batterie in generale, perché ormai quasi tutto è dotato di batteria. E in effetti c'è questo indirizzo prevalente dell'autonomia energetica, cioè si cerca di avere comunque questi dispositivi che siano autonomi dal filo, e quindi Qui si è innescato questo meccanismo di esplosione nell'uso del prodotto elettrico elettronico, apparecchio elettrico elettronico trasportabile e autonomo a livello energetico. Motivo in più per riutilizzare tutto ciò che è riutilizzabile, perché si tratta comunque di componenti molto inquinanti se vengono abbandonati così nell'ambiente. Sì, direi che anche qui, senza voler essere troppo tecnicisti, nell'ambito di quelle che sono le batterie, che possono essere il nickel cadmio piuttosto che il metallo idrato, il litio, il piombo, quant'altro, sono tutti metalli e sostanze che, se vengono disperse nell'ambiente, sono particolarmente altamente inquinanti. Ora, attraverso questi meccanismi di riciclaggio che ci portano a reimpiegare completamente i metalli contenuti nelle batterie esauste, è possibile riutilizzare detti metalli nella produzione di batterie nuove. Il piombo piuttosto che il cadmio, che viene estratto puro dal riciclaggio delle batterie obsolete, piuttosto che il nickel e quant'altro. Quindi il ciclo praticamente è un ciclo chiuso. È questa parte di materiale recuperato che viene importata in Francia? Esatto, perché purtroppo il problema che noi abbiamo finora in Italia è che non esistono, salvo strutture che sono perfettamente funzionanti in Italia, che recuperano il piombo, per altre tipologie di batterie in Italia non esistono siti produttivi in grado di recuperare e riciclare il nickel, il cadmio, il litio e quant'altro. E che risparmiano, pensavo un po' ai discorsi che si fanno in generale su guerre in Africa per materie prime che poi si usano anche per le batterie, insomma ci risparmiano non solo l'ambiente, ma si risparmiano anche vite umane recuperando queste cose. Beh, certamente ci sono degli effetti concatenati al riciclaggio e recupero dei metalli. Direi che il risultato è molteplice in termini di soluzioni positive nel riciclare questi materiali. Tenga conto per esempio del litio. Il litio è una risorsa che è ben concentrata in alcune aree ben definite in tutto il mondo, e il poterlo arrivare a reimpiegare, questa non è cosa di poco conto, così come anche arrivare a recuperare e riciclare gli apparecchi elettrici e elettronici, di cui magari poi parliamo più avanti. Certo, no, adesso ci arriviamo, perché tutto questo che abbiamo detto prende ancora più corpo, più valore, proprio grazie a questo decreto finalmente arrivato, decreto 1 contro 1, così detto. È un bel passo avanti, l'abbiamo atteso per quanto tempo? Anni? Beh, direi che l'attesa è stata abbastanza lunga, se posso esprimermi così. Ora, questo è un decreto molto molto importante, perché consente a noi cittadini di poterci, senza alcuna preoccupazione, proporre all'atto dell'acquisto di un prodotto elettrico elettronico nuovo, poter portare il prodotto usurato perché non funziona più, piuttosto che obsoleto in termini tecnologici. Cioè, mi posso presentare con una televisione che ha un tubo catodico perché voglio sostituirla con una bella televisore al plasma da 30 pollici che è molto più bello e tecnologicamente più avanzato. Ecco, mi presento al punto di vendita, deposito il vecchio e ne compro uno nuovo. Punti di vendita di tutti i tipi, dai piccoli ai grandi? Il legislatore non ha fatto distinzione alcuna. Ora, credo però che sia opportuno anche cercare in qualche motivo di dare un minimo di tempo anche alla distribuzione, per far sì che si possa in qualche maniera organizzare. Senta, una volta diciamo che tutti si saranno un po' organizzati, che cosa succederà? Io consumatore compro, porto il mio vecchio lì, e il rivenditore che cosa fa? Per rendere la cosa abbastanza semplice per noi cittadini, io mi presento col mio vecchio, faccio un esempio molto banale, cellulare, deposito il vecchio cellulare, ne compro uno nuovo, e il rivenditore, attraverso il ritiro di questi prodotti, trasporto di questi prodotti presso le piazzole ecologiche, far sì che dalle piazzole ecologiche i sistemi collettivi che operano sul territorio vadano a ritirare tutto questo materiale. Chiariamo che cosa significa sistemi collettivi? Ecco, il sistema collettivo è una terminologia che va a identificare un consorzio come il nostro, per esempio. Tutti senza fini di lucro che operano sul territorio in nome e per conto dei produttori. Ora, aggiungiamo anche un piccolo particolare. Questo cosiddetto cambio 1 decreto 1 a 1 in sostanza significa poi questo, che abbiano comunque una logica coerente i prodotti che vado a sostituire con quelli che vado ad acquistare. Cioè, per farla breve, non mi presento con un cellulare per acquistare una lavatrice o viceversa. Ecco, ci deve essere un minimo di logica. Credo che questo sia davvero il modo anche per arrivare a far sì che il cittadino non sia semplicemente obbligato a doversi presentare alle piazzole ecologiche come prima doveva accadere. E come accadrà però magari per quei prodotti che, di cui ci si vuole semplicemente disfare senza sostituire? Sì, certo, questi rimangono naturalmente aperti a tutti noi cittadini, quindi io posso avere l'opzione, se ho l'esempio sempre del televisore che me ne voglio disfare perché comunque non voglio acquistare uno nuovo, vado nella mia piazzola ecologica comunale. Nel parimenti, se voglio invece acquistarne uno nuovo, posso rivolgermi alla distribuzione che ha modo di poter ritirare il mio vecchio televisore e fornirmene uno nuovo. È tutto per questa puntata. Vi ricordo, per scriverci, respiro@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.